prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Anche questa settimana raccontiamo diverse iniziative estive della Caritas di Padova. Summer On è il fascicolo di cui parlavamo nella puntata scorsa, con davvero tantissime proposte padovane esclusivamente o non solo padovane per l'estate 2015, proposte estive di servizio e condivisione per i giovani. Allora, prima di entrare nel dettaglio di alcune di queste proposte, ci facciamo spiegare quali sono 5 buoni motivi appunto per mettersi a servizio, per mettersi a disposizione. Insieme a me oggi e anche probabilmente per la settimana prossima, Beatrice Barrichello della Caritas di Padova. Ciao Beatrice, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. E i motivi del di mettersi a servizio noi chiamiamo 5 buoni motivi. Il primo è quello di mettersi in gioco condividendo tutte le competenze, le esperienze, le abilità che ci appartengono e farle fruttare. Il secondo buon motivo per mettersi a servizio è quello di comprendersi, perché mettendosi a contatto con le fragilità dell'altro è possibile anche riconoscere le nostre fragilità e insieme iniziare un percorso per cambiare. Ecco che il terzo buon motivo è cambiare per non restare appunto immobili e cercare di darsi da fare per poter trovare un'alternativa a questa situazione di disagio. Un altro buon motivo è quello di arricchirsi, perché appunto è l'altro lato della medaglia di mettersi a servizio, cioè non è solo un donare ma è anche un ricevere, che ci permette appunto anche di acquisire delle nuove abilità, delle nuove competenze, di fare nuove amicizie. E infine, però non per importanza, c'è quello di restituire la dignità alla persona, che sappiamo bene come le fatiche, quando condivise, sono meno difficili, e questo appunto far sentire l'altra persona importante ci permette appunto di metterla in primo piano, di restituirle dignità. Il servizio appunto, quindi ci si mette a disposizione per un tempo magari limitato, una settimana o qualche giorno in più, a servizio di persone che hanno delle necessità che magari sono diverse dalle nostre. Leggendo anche le testimonianze che alcuni giovani hanno lasciato degli anni scorsi, c'è un filo conduttore che è comune anche ad altre esperienze simili, cioè il fatto che certo, loro hanno dato del tempo, hanno dato magari una mano a delle persone con abilità diverse o che hanno in particolare situazioni di difficoltà, ma quello che poi emerge è che è di più quello che hanno ricevuto alla fine. Certo, è proprio questo a cui noi puntiamo, fare un'esperienza estiva che permette di dare un valore aggiunto a quel tempo che è più libero rispetto al resto dell'anno, diventa anche un'opportunità per poi anche cambiare il proprio stile di vita e quindi non limitare l'esperienza a quella settimana estiva ma proprio a tutta la nostra vita, permettendoci di valorizzare quelle che sono le cose realmente importanti come le relazioni. I giovani, dicevamo, quindi c'è un limite più basso e un limite più alto di età, perché è vero che uno si sente giovane anche ad età più avanzata, ma diciamo dai 16 ai 30 anni circa. Sì, abbiamo tre diverse esperienze. La prima è quella del campo per under 18, quindi dai 15-16 anni fino ai 18, e sono due esperienze che si fanno dal 15 al 20 giugno e dal 22 al 27 giugno grazie a due partner, l'IRPE e l'ANFAS, che ospiteranno i ragazzi durante il giorno per affiancare gli educatori di questi due centri diurni per persone con disabilità. Alla fine della giornata, quindi verso le 4:30, i ragazzi rientreranno poi a casa. Ci sono poi due esperienze invece per un target un po' più alto, quindi dai 18 fino ai 30-35 anni, e uno al campo di servizio a Tunisi dal 22 luglio al 2 agosto, e questo campo ci teniamo molto perché è un modo anche per andare oltre quella paura, quella che c'è un po' generalizzata in questo momento visto le ultime vicissitudini. E poi il campo invece punti di svista in città, che è qui a Padova dal 2 agosto all'8. Ripartiamo allora, così diciamo anche qualcosa in più su queste esperienze cittadine, appunto a Padova, quindi se hai detto i ragazzi, gli adolescenti poi possono entrare a casa, chiaramente è meglio se abitano in città o nei dintorni dove poi si possono spostare agevolmente. Certo, sì, esatto, noi chiediamo ai ragazzi di recarsi nel luogo dove si svolgerà il servizio, che sono appunto due strutture qui a Padova, quindi certo sì. È meglio, insomma, se uno viene da Asiago è un po' più problematico, a meno che non abbia un punto di appoggio qui per questa esperienza. Appunto, in aiuto, quindi in questo caso è in appoggio, quindi i ragazzi non sono mai lasciati da soli nel fare servizio, certamente vengono guidati e anche introdotti, immagino. Sì, oltre ad essere affiancati appunto dagli educatori dei centri, ci sono anch'io che mi occuperò un po' della parte più riflessiva di costruzione del senso di questa esperienza e durante tutta la settimana. Ricordiamolo, dal 15 al 20 giugno e dal 22 al 27, il riferimento lo ripetiamo sempre, volontariato@caritaspadova.it, telefonate anche alla sede di Caritas Padova. Cercate Beatrice e vi dà ulteriori informazioni su questo. Allora, per oggi, Beatrice, il nostro tempo è finito, quindi ci ritroviamo la settimana prossima per parlare meglio dell'esperienza di Tunisi e anche dell'altra esperienza cittadina, che sono i punti di svista. Intanto grazie, alla settimana prossima. Grazie, buona giornata. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.